giù di gli occhi frama non dormire. Tutto fatto, vedi mostri, vuoi morire. Vuoi allontanarti dal mondo, scomparire. Invece rimani sempre lì, impazzire. Io vado diretto, dopo fumato mi getto, rigetto. Butto tutto nello zainetto, faccio brutto ridendo. Tu sei brutto, poveretto. Le mie rime ti mandano a lutto, stai attento. Stay high per me dormire. Solo quando chiudi gli occhi vedo, immagino come andrà a finire. Le riapro, vedo facce nuove, di sicuro hanno da ridire. Mi alzo, ne accendo un altro e dico, lo vorresti finire? Certo che lo vuoi finire, vedi quel bong, vallo a riempire. Mettici il rum che ci fa digerire. Hai un drum, non ci serve, fallo scomparire. Noi abbiamo una cosa che dopo devi dire fine. Escono rime che fanno impazzire, le tipe pronte a sentire. Tu che rap e vuoi dire cose impossibili, tipo che sniffi, scopi e vendi in cortile. Stay high, bocca fresca come quando mastichi le ice. Stay high, come stai? Tutto bene? Noi a spasso come le iene, con gage belvedere. Non faccio chiacchiere ma solo fatti. Dammi l'erba e chiudo, sistemo i chiatti. In giro tutti fatti, con l'erba da tutte le parti. Per le strade alternando i quattro quarti. È arrivata la stagione, affitto lettino e ombrellone. Chiudo un altro cannone, mi tuffo dallo scoglione. Faccio splash, buste piene di critical cash. Foto con il flash, parto per un altro viaggio, Pineapple Express. Stay high, so fatto in cima al mondo. Fumo una cima e poi ritorno. Schimico con dolce all'erba dentro al forno. Dormo tutto il giorno come un ghiro. Mi serve il caricatore, mi metto in azione solo quando aspiro. Pronto per un altro giro, collasso ma so cosa fare. Nuoto per non affogare, salto e imparo a volare, l'accendo e inizio a viaggiare. Poi tu, basta saperlo fare. Stay high, bocca fresca come quando mastichi le ice. Stay high, come stai? Tutto bene? Noi a spasso come le iene, con gage belvedere. Quando fumo c'ho gli occhi in made in Cina, la uso cazzo come fosse medicina. Rollo come un pazzo che in 5 minuti ne chiude una decina. In 30 nella piazza neanche spacciassero cocaina. Siamo una gang bang aggressiva, come il Big Bang, l'orologio di un'inglesina. Bangladesh con tanta weed, poco slang e tanto cash nelle vene, tipo insulina. Fumo e non penso a ciò che ho fatto, questo è il fatto. Stay high, voglio stare fatto, stare in alto, scacco matto. Pensi che son matto, se mi vedi non ci credi. Occhi rossi come Bloody Mary, leggo i tuoi pensieri, volare leggeri. Pochi grammi, troppi drammi, solo erba per sfamarmi. Pace, amore, zero armi, aspiro e sono pronto per lanciarmi. Stay high, stay high, bocca fresca come quando mastichi le ice. Stay high, come stai? Tutto bene? Noi a spasso come le iene, con gage belvedere.